Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, ben ritrovati, buona domenica, nuovo numero di Strade e Motori che ci auguriamo interessante, tanti gli argomenti da approfondire anche oggi, parleremo di pneumatici, di sviluppo, ricerca e tecnologia questa settimana, poi parleremo anche di Tutor, famigerato per i più perché è sempre, come dire, a rischio multa su tanti tratti della nostra autostrada, però è un efficace strumento, come vi diremo, per garantire la sicurezza su tratti autostradali particolarmente pericolosi. Poi ci chiederemo perché sono crollate le vendite di auto a metano e GPL. Ma partiamo conoscendo meglio una new entry del mercato automobilistico italiano. Eh sì, perché da un anno in Italia è presente Infiniti, un marchio che fa riferimento alla casa madre, chiamiamola così, Nissan, un marchio nato a livello internazionale alla fine degli anni 90, dal 2008 in Svizzera, un modello distributivo peraltro molto particolare che conosceremo meglio. Il distributore nazionale per l'Italia è il gruppo Fassina ed è un piacere avere in collegamento con noi questa domenica Ado Fassina, che è amministratore delegato del gruppo, come dicevamo, distributore per l'Italia di Infiniti. Buona domenica Fassina, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a tutti voi. Allora, cos'è Infiniti? Conosciamo meglio questo marchio, questa azienda. Quando nasce? Chi produce queste auto? Infiniti è un'azienda giapponese che è nata nel 1989 e la strategia è stata quella di distribuire i propri prodotti inizialmente nel mercato statunitense, con l'obiettivo poi di arrivare in Europa, appunto come diceva lei prima, nel 2008. L'obiettivo fino ad oggi è stato quello di posizionare il marchio tra i brand premium e crediamo di esserci riusciti in Italia e in tutta Europa. Quindi la filosofia è quella di posizionare accanto al brand generalista Nissan un brand di lusso come Infiniti. Quali sono i modelli di punta di Infiniti in questo momento presenti in Italia? I modelli di punta sono i nostri due crossover che si chiamano FX ed EX, poi la gamma si è completata da altri tre modelli, una berlina di taglio medio, una coupé e una cabrio coupé con tetto rigido. Peraltro la grande novità, è che è un po' anche il motivo della nostra chiacchierata di oggi, dottor Fassina, è che su queste vetture arriva il diesel, che invece non era disponibile fino alle ultime settimane, soprattutto sui crossover intendo. Ci sarà una svolta importante per noi, che l'introduzione dei motori diesel a 6 cilindri ad alte prestazioni sui nostri due modelli di punta, come dicevo prima, i due crossover FX ed EX. Questa importante novità ci permetterà di crescere significativamente dei volumi di vendita. A questo proposito ci sono già dei primi segnali estremamente incoraggianti, infatti molti clienti hanno approcciato alle nuove motorizzazioni fin dal lancio. Voi siete arrivati sul mercato italiano in un momento non facilissimo, perché è vero, sì, il 2009 è stato un anno di grande boom, se vogliamo, anche in qualche modo dovuto agli incentivi. 2010 invece sappiamo benissimo quali sono le cifre, sarà un anno particolarmente complicato. Infiniti, perché innanzitutto ha scelto di inserirsi nel mercato italiano in questo momento e poi, come dire, come sta andando a livello di vendite? Noi avevamo programmato questo investimento sin dal 2006, quando la crisi non era ancora evidente, e comunque la crisi ci fa paura fino a un certo punto, perché l'investimento non è di breve periodo, ma è un investimento di medio e lungo periodo. Certo. Personalmente credo che con il termine del 2010 anche la crisi si affievolirà e quindi ci permetterà di recitare il nostro ruolo. Tuttavia Infiniti finora ha performato in maniera incoraggiante, abbiamo raggiunto gli obiettivi di vendita che ci eravamo posti per il 2009 e ora, come dicevo prima, con l'introduzione delle motorizzazioni turbo diesel ad alte prestazioni, crediamo di triplicare o quadruplicare le vendite. Abbiamo parlato di un modello di distributivo, chiamiamolo così, modello di distribuzione auto molto particolare. Noi non stiamo parlando con Infiniti, ma parliamo con il gruppo Fassina in questo momento, perché voi siete distributore nazionale. Ecco, come funziona la distribuzione? Funziona esattamente come i classici concessionari, soltanto che per l'Italia l'unico concessionario è il gruppo Fassina. Abbiamo in questo momento 5 sedi dirette che coprono le principali città italiane, che sono Milano, Roma, Padova, Bologna, Firenze e presto una sesta sede a Torino. E quindi noi ci occupiamo, oltre che di importare le auto, anche di distribuirle al cliente finale one to one. Visto che lei all'inizio della chiacchierata a microfoni spenti mi diceva meglio dire gruppo Fassina perché ci tengo all'italiano, allora io traduco Total Ownership Experience, che è un'altra delle vostre caratteristiche, come esperienza per una proprietà totale, diciamo così, proprio per ridurla a un italiano. La volontà di dare di cosa si tratta? Un'esperienza di possesso e di guida veramente unica, dal momento in cui entra nei saloni per acquistare le nostre auto, al momento in cui, quando poi passa la guida, a quando passa il momento dell'assistenza e poi eventualmente quando si deve sostituire la macchina. Cioè, vogliamo far sentire con la Total Ownership Experience il nostro cliente parte di un vero club e farlo sentire estremamente sicuro in qualsiasi momento. Niente male allora, grazie a Dado Fassina, amministratore delegato del gruppo Fassina, distributore per l'Italia di Infiniti, che ci ha permesso di conoscere meglio questo marchio, ancora relativamente nuovo per il grande pubblico italiano. Grazie Fassina, buona domenica, a presto. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Già la scorsa settimana avevamo commentato insieme i dati che riguardano le vendite di auto in Italia nell'ultimo mese, avevamo insomma sottolineato come il calo c'è, esiste, è profondo, ahimè doloroso e sicuramente anche duraturo e ci accompagnerà per tutto il 2010. C'è un dato in particolare che però vogliamo approfondire questa domenica, innanzitutto salutando il nostro ospite, il professor Paolo Malagodi. Buona domenica, ben ritrovato professore. Grazie Massimo. Abbiamo notato come negli ultimi mesi le quote di mercato del GPL e del metano, sia in termini assoluti che in termini relativi, siano assolutamente crollate. Abbiamo dei numeri in proposito da approfondire, professore, e poi soprattutto perché questo è accaduto nel mercato italiano? I numeri possono annoiare, ma servono a capire la dimensione di un fenomeno. È giusto quello che lei diceva, il GPL, ma soprattutto il metano, nei due mesi, quello di aprile e quello di maggio, che non hanno più risentito dell'effetto degli ecoincentivi, perché gli ascoltatori ricordano che se anche in gennaio, febbraio, marzo non avrebbero potuto comprare macchine con gli ecoincentivi, anche se qualche piccola eccezione, qualche caso ha cercato di farla, ma sorvogliamo, era possibile però immatricolare in gennaio, febbraio, marzo le vetture ordinate entro il 31 dicembre dell'anno scorso per godere appieno degli ecoincentivi. È chiaro che soprattutto le vetture con un contributo robusto, quello del GPL e del metano, avevano una scorta di ordini che si è tradotta in consegne che a tutto marzo non hanno segnato un cambiamento del fenomeno. La cosa invece ha totalmente cambiato d'aspetto in aprile e ancor più in maggio, quando non è più possibile l'immatricolazione con incentivi al GPL e al metano. Certo. E qui il metano è assolutamente crollato. Il numero dell'anno scorso, parlo di maggio, era il 7,1% di quota, il che vuol dire che una vettura su 13 circa era metano. In maggio siamo all'1,36, vuol dire che una vettura su 90 a questo punto è a metano. Ancora peggio era in aprile, perché avevamo sempre una quota del metano di 7,2 eccetera, e addirittura siamo scesi all'1,1, che vuol dire che quasi soltanto uno ogni 100. Quindi il metano ha questo aspetto veramente di crollo verticale. Un po' meno il GPL, ma per il quale abbiamo comunque un robusto calo delle immatricolazioni del 35% in maggio, così come l'abbiamo avuto del 18% in aprile, mentre il metano è con un calo dell'85-86% mese su mese. E questo perché è accaduto, professore? I benefici dell'auto alimentata a metano a GPL, sia in termini economici di risparmio banalmente per l'automobilista, sia in termini anche di, chiamiamolo, rispetto per l'ambiente, possibile che siano scemati scomparsi addirittura con la scomparsa degli incentivi? Possibile che non ci si pensi più adesso che si risparmia acquistando un'auto a metano a GPL semplicemente perché non c'è più la mancia dello Stato all'acquisto? La sua domanda è ben posta e certamente solleva un problema che richiede un minimo di approfondimento. Chiaramente il momento in cui gli incentivi sono stati dati abbondantemente, gli ascoltatori ricordano che per il GPL si avevano fino a 2.000 euro di contributo e per il metano fino a 3.000 euro, questo significava comprare una macchina a metano o a GPL allo stesso prezzo di una benzina, anzi nel GPL qualcosa di meno addirittura. Allora cosa succedeva? Che anche chi non aveva bisogno del GPL o del metano dice: tanto me lo regalano, lo prendo. E questo questo ha significato un aumento di quota forse superiore al fisiologico, tant'è che l'aumento, la pompa poi dei consumi di GPL e di metano non sono aumentati in proporzione alle immatricolazioni. Però tra questi vi era una quota buona di automobilistiche, proprio facendo riferimento al fatto di viaggiare per svariate migliaia di chilometri a GPL, a metano, piuttosto che a benzina o a gasolio, avrebbero risparmiato. Questa quota di automobilisti in questo 2010, senza gli incentivi, non si affaccia neanche al mercato per una sorta di onda di riflusso, cioè abbiamo avuto la onda che è talmente montata, si è abbattuta sulla costa con un effetto forte, ritorna indietro e quindi non c'è più spazio per una domanda, perché l'automobilista in questo momento, anche attento al metano, al GPL, si fa un'obiezione, la fa lo Stato, dice come l'anno scorso regalavate anche a quelli che non ne avevano bisogno del GPL e del metano, quest'anno io ne ho bisogno, mi vorrete pur dare un minimo contributo, altrimenti aspetto o non la prendo. Quindi esiste questo effetto attesa, cioè non compro perché aspetto che gli incentivi poi prima o poi torneranno. Qui esiste anche un effetto quasi rifiuto, proprio il concetto di dire, beh scusa, fino a ieri non solo mi davi da mangiare gratis, ma mi permettevi anche di prendere la sportina per portarmela a casa, adesso anche se prendo un grissino, un panino, vuoi che io lo paghi? Allora guarda, io non vengo più al tuo ristorante o al tuo self-service, perché è troppo squilibrato il trattamento. Forse una logica di non incentivi alla rottamazione, per le ragioni che sappiamo, aveva un senso, ma forse andava, anzi certamente mantenuta, un sostegno all'acquisto di macchine a GPL metano, magari non con i 2.000 euro per il GPL, ma con i 1.000, magari con i 1.500 euro per il metano, il che avrebbe permesso non solo un aiuto al mercato in senso generale, ma a chi veramente utilizza questi combustibili alternativi, ecologici, meno inquinanti e ha una ragione di risparmio, poteva dire, beh, in fondo la macchina a GPL a metano mi costa leggermente di più, ma tutto sommato lo Stato mi dà un aiuto, quindi mi metto in questa direzione. Questo non c'è stato, io non escludo che tra questo momento e la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno qualcuno possa ripensare una strategia invece di sostegno al mercato tramite proprio vetture a basso impatto ambientale, quali quella del GPL del metano. Quindi forse chi dice in questo momento non compra potrà avere tra qualche tempo, è una mia ipotesi, è pura e semplice, un qualche sostegno all'acquisto, almeno me lo auguro. Ce l'auguriamo ovviamente anche noi. Noi ringraziamo il professor Paolo Malagodi, che è stato ospite di Strade e Motori in questa domenica pomeriggio. Professore, grazie ancora per la sua analisi e a presto. A presto. Strade e motori. Strade e motori. È appena finito in Brasile il Michelin Bibendum Challenge. Di cosa si tratta lo scopriremo tra poco in Strade e Motori, seconda parte, che apriamo però salutando il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. E allora, buona domenica, direttore, ben ritrovato. Buona domenica a voi. Allora, parliamo di Tutor questa settimana nel nostro consueto appuntamento. Tutor presente ed attivo su molti tratti delle nostre autostrade, peraltro presto lo vedremo anche su alcune strade statali, lo ha confermato l'ANAS qualche settimana fa. Di Tutor si occupa anche il numero di Quattro Ruote in edicola. Cosa avete scoperto nella vostra inchiesta, direttore? Abbiamo scoperto che c'è una parte di automobilisti che si disinteressa anche del Tutor e continua a dare a velocità folli. Diciamo che la maggioranza si è adeguata e sicuramente le velocità medie nei tratti che sono coperti è diminuita, però ci sono alcuni, diciamo, recidivi che continuano ad andare molto forte. Abbiamo il caso di una Porsche che nel tratto della Milano-Bologna all'altezza di Lodi è stata beccata con una media a oltre 270, quindi vuol dire con dei picchi anche superiori. E poi raccontiamo anche i casi, per esempio, di un recordman che sul tratto Roma-Frosinone della Roma-Napoli, evidentemente era un pendolare, è riuscito a beccare più di 90 multe con il Tutor nel giro di pochi mesi, quindi stiamo parlando anche di cifre molto importanti. Notevoli. Ma direttore, questo perché accade? Perché l'utente medio, come dire, non conosce il funzionamento del Tutor, pensa sia in quel momento non attivo, o magari semplicemente conosce la burocrazia italiana e pensa che poi le multe non arriveranno mai e se anche arrivano non vengono pagate? No, le multe arriveranno e tra l'altro diamo un'altra informazione, cioè che a Settebagni, quindi vicino a Roma, la Polizia Stradale sta allestendo un centro che sarà pronto molto probabilmente a settembre, da cui verranno gestite tutte le cosiddette multe in remoto, e quindi non solo le multe con il tutor, ma anche tutte le infrazioni, per esempio con il famoso sorpassometro, cioè con tutti gli strumenti di rilevazione a distanza delle infrazioni, anche per esempio il percorrere la corsia di emergenza, ovviamente senza averne l'autorizzazione, anche lì si può essere identificati con degli strumenti elettronici, quindi da lì verrà gestito grosso modo circa 1 milione di contravvenzioni all'anno, che è un bel numero. E comunque, tornando alla domanda, perché l'automobilista a questo punto, considerando che il tutor è uno strumento efficace che funziona regolarmente, continua a imperterrito a sfidarlo? Come dicevo, però è una larga minoranza, perché in effetti nei tratti coperti da tutor l'incidentalità è diminuita in maniera assolutamente drastica. Poi ci sono persone che si interessano, purtroppo tra queste devo dire ci sono anche molti stranieri che magari sono virtuosi a casa loro, lo sono meno in Italia, e loro sì, contano sul fatto che quasi mai pagano le multe, perché in realtà non si è ancora trovato un meccanismo per rincorrerli a casa loro esattamente come si fa con gli italiani. C'è da augurarsi una estensione del sistema di monitoraggio tutor anche sui tratti autostradali che attualmente non sono coperti? E seconda domanda, il tutor può servire anche sulle statali che creano maggior, come dire, livello di criticità? Prova a immaginare la Pontina in provincia di Roma piuttosto che la Paullese alle porte di Milano. Diciamo subito che il tutor è uno strumento molto più equo dell'autovelox, che fa una fotografia istantanea, quindi magari una persona si è distratta un attimo ed è andata oltre i limiti di velocità, mentre il tutor, appunto, rilevando tratti che in genere sono di 10-15 km, evidentemente danno una fotografia molto più reale del nostro comportamento in termini di velocità. Devo dire che sì, lo trovo meglio dell'autovelox, quindi va bene il tutor, e tra l'altro il tutor sta servendo anche alla società autostrade e alla polizia stradale per adeguare i limiti di velocità là dove ad esempio sono molto bassi, ma si vede che in realtà la velocità media dei veicoli è un pochettino superiore senza che questo crei incidenti, e quindi in quel caso i limiti vengono ritoccati anche all'insù se è il caso, proprio perché il tutor serve non solo per le infrazioni ma anche per capire a quali velocità e con quali criticità i veicoli percorrono quel determinato tratto autostradale. Quindi non è solo uno strumento di repressione ma è anche uno strumento di conoscenza, e questo credo che sia molto importante perché c'è bisogno di mettere i limiti con più professionalità e non in modo superficiale come spesso avviene in Italia. Non c'è dubbio, condividiamo in pieno il suo pensiero. Direttore, grazie a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, che ritroveremo domenica prossima. Buona settimana e a presto, direttore. Grazie a voi e buona domenica. Evento mondiale della mobilità stradale sostenibile, una definizione certamente impegnativa, importante, per un evento però altrettanto importante. Stiamo parlando della 10ª edizione del Michelin Challenge Bibendum, che si è concluso qualche giorno fa a Rio de Janeiro in Brasile. Un happening aperto dal presidente brasiliano Lula. Di cosa si è trattato lo chiediamo al nostro ospite, che è Marco Do, direttore della comunicazione di Michelin Italia. Buona domenica, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a lei, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Inquadriamo un po' questo Challenge Bibendum della Michelin, quali sono le caratteristiche fondamentali di questo appuntamento? Questo è un'idea che nasce da Edouard Michelin nel 1998, l'idea di organizzare una manifestazione, un evento che riunisca tutti gli attori della mobilità, interessati a sviluppare una mobilità sostenibile, quindi attenti al verde, alle tecnologie del verde, partendo dalla considerazione che già nel 1998, che la mobilità negli anni futuri non sarà più la stessa di oggi. Pensiamo solo a un dato, che oggi abbiamo 800 milioni di veicoli che circolano e ci aspettiamo che nel 2030-2040 questa cifra raddoppi, quindi non è pensabile che si circoli alle stesse condizioni. Ecco, si riesce a parlare tra attori di questo importante palcoscenico, nel senso mettere insieme i governi, le case produttrici di automobili, in questo caso voi che siete anche i padroni di casa, ovvero case produttrici di pneumatici, e tutti insomma gli altri importanti esponenti del settore. Avete un linguaggio comune, un minimo comune denominatore, o è complicato trovarlo nel 2010? Il minimo comune denominatore è dato dalla volontà di tutti coloro che partecipano di trovare delle soluzioni per il futuro. È chiaro che soluzioni per la mobilità verde, quindi sostenibile, è chiaro che non tutti hanno le stesse idee, nel senso che le tecnologie sono molteplici e variabili, però l'intento è comune, quindi alla fine la volontà di trovare una soluzione che proponga per tutti una mobilità migliore, più sostenibile, più pulita, c'è, e quindi si riesce a parlare. È chiaro che dal confronto di idee e dallo scambio di idee poi si previene una sintesi che permette però di progredire. Durante questo happening avete effettuato anche una serie di test su alcuni veicoli. Può farci così un sunto di come sono andati questi test? Ma allora, la caratteristica di questo evento è proprio che lo distingue da un salone vero e proprio, sì, è che c'è sia la parte salone, e quindi vengono esposte delle soluzioni, vengono esposte dei veicoli, vengono esposte delle idee, e c'è sia la parte test, cioè quello che si vede nel salone, che è in forma statica, poi può essere testato e provato dai partecipanti alla manifestazione su circuito. Allora, io diciamo, ho provato alcuni di questi veicoli, ma forse bisognerebbe parlare con degli specialisti, dei tester, ecco, per poter dire come vanno questi veicoli. C'è da dire che comunque tutti i veicoli presentati, possiamo citare ad esempio l'Audi e-tron, possiamo citare il veicolo Euliez che monta tra l'altro la ruota motorizzata della Michelin, l'Active Wheel, possiamo citare la BB1 di Peugeot, anch'essa mossa da ruote motorizzate Michelin, sono tutti veicoli che hanno poi dato prova di funzionare, ecco. Quindi queste soluzioni che possono sembrare, se lette sulla carta o viste in forma statica, soltanto così avveniristiche del futuro, in realtà sono già su strada e funzionano. A Rio de Janeiro avete anche presentato un centro esposizione di tecnologie Michelin, di vostri prodotti. Anche qui cosa avete avuto idea e voglia di mostrare al grande pubblico? Beh, allora mostriamo, intanto diciamo che Michelin è dal 1992, quindi in tempi assolutamente non sospetti, che produce il pneumatico verde. Sì. Oggi in commercio c'è la quarta generazione del pneumatico verde. Dove per pneumatico verde intendiamo? Un pneumatico verde a bassa resistenza a rotolamento. Allora forse vale la pena ricordare a tutti gli ascoltatori che la resistenza a rotolamento è quella resistenza che offre lo pneumatico all'avanzamento della vettura ed è responsabile del 20% del consumo di carburante, quindi un pieno ogni 5 se ne va a causa dei pneumatici. Gomme. Quindi avere pneumatici che offrono minor resistenza a rotolamento è molto importante. Oggi Michelin sta commercializzando la quarta generazione, che è il Michelin Energy Saver. A Rio è stato presentato quello che sarà l'evoluzione di questa quarta generazione, quindi una futura quinta generazione, e questo è stato un primo prodotto presentato. Poi ci sono stati presentati due concept, un pneumatico da 10 pollici, estremamente piccolo, quindi diciamo che la dimensione media dei pneumatici oggi è tra i 15 e i 16 pollici, ma un pneumatico da 10 pollici, quindi piccolo, quindi che con minor materia prima impiegata, quindi più leggero, quindi questo anche favorisce aiuta la resistenza al rotolamento, ma con una portanza dinamica equivalente a quella di un 14 pollici, quindi un pneumatico tra l'altro piccolo che offre nuove possibilità ai design di automobili per sfruttare spazi e alleggerisce la vettura. Poi un prototipo di pneumatico invece, questo più grande, a bassissima resistenza al rotolamento, proprio fatto apposta per le vetture elettriche, perché ormai il destino è segnato, diciamo, ci sarà nei prossimi 15 anni le vetture elettriche, interamente elettriche, saranno in commercio, soprattutto per gli spostamenti urbani. E poi due concept di ruote motorizzate, queste sono delle rivoluzioni, proprio Michelin ha ripresentato completamente la ruota. Lo pneumatico cosa ha fatto? Ha inserito all'interno della ruota il motore elettrico, in un caso è quello che equipaggia la BB1 della Peugeot, l'abbiamo citata prima, quindi la ruota motorizzata. In un altro caso c'è addirittura una ruota Michelin, si chiama Active Wheel, che integra motore e sospensione, proprio questo per la mobilità urbana elettrica. Quindi queste sono state le grosse novità di Michelin e che sono state presentate al Salone di Rio. Grazie allora Marco Do, direttore comunicazione Michelin Italia, ci diamo appuntamento così per nuovi aggiornamenti ovviamente e perché no anche per conoscere magari in anteprima quali saranno i temi in discussione dell'edizione 2011 del Michelin Bibendum Challenge. Buona domenica, buona settimana, a presto. Grazie a tutti voi, arrivederci, buona domenica. È tutto per questo numero di Strade e Motori, grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia, a voi per aver scelto anche questa domenica Radio 24, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un nuovo appuntamento insieme, adesso le ultime notizie del giornale radio da Massimo Di Scienza, l'augurio di un'ottima settimana a tutti, ciao!